no, si chiamava sempre Robe da Matti, questa è la seconda edizione. Mm-hmm. E, visto il successo dello scorso anno, e, si tratta di un insieme di conferenze, 54 mi pare, no, 40, 45 conferenze, tenute da 23 colleghi fra psicologi e psicoterapeuti, che hanno l'obiettivo di diffondere la conoscenza della psicologia, di promuovere il benessere e prevenire il disagio psicologico. E quindi disagio ne abbiamo. No, dico, parlo per me, però sto pensando in realtà a questi muri che, se potessero parlare, ne racconterebbero di disagio. Scusa, ti interrompo, perché sai com'è, io sono così. Ah no, interrompimi pure. E dunque cosa succede? Come l'anno scorso, adesso continuo a dire come l'anno scorso, perché mi fa piacere che voi torniate, eccetera, ma nello stesso tempo i nostri quattro radioascoltatori probabilmente dicono: ma l'anno scorso perché esisteva Coxo Spaziale, ma che cos'è questa radio? No, dicevo, come l'anno scorso, un mese preciso, tutto il mese di ottobre di eventi gratuiti. Tutti gratuiti? Sono tutti gratuiti e si tengono a Bologna, ad Anzola, Casalecchio di Reno. Ecco, vedi, questo qua Terme. Per esempio, lascia che si arrabbiano, come gestire la rabbia dei nostri figli, ma è fino a questo che lo fai tu, Roberta. Sì, è mio. Alla Casa di Conoscenza di Casalecchio il 9 ottobre, adesso ho buttato l'occhio lì subito. È capitato proprio quello. Sì, no, ma sai, perché io ho un figlio che ha già 11 anni, però ogni tanto fa ancora fatica a contenere la rabbia, ha avuto... Ha 11 anni, ha ancora problemi con la rabbia a 11 anni. Ebbene sì, ci abbiamo provato, ma adesso vengo così mi racconti cosa devo fare con lui. Esatto, ma il problema non è avere il problema con la rabbia. Il problema sono i genitori. Il problema è sempre colpa dei genitori. Fin qua ci siamo. Questo esatto. È un dato di fatto. Esatto, la rabbia è un'emozione assolutamente naturale che è giusto provare. E capita spesso invece che i genitori tendano a dire al bambino che la rabbia è un'emozione sbagliata o che va contenuta e soffocata. Invece la rabbia è estremamente importante come emozione, perché aiuta non solo il bambino a crescere, ma può essere utilizzata anche dall'adulto come energia propulsiva. Per cui la rabbia è un'emozione normale che è giusto provare. Dobbiamo insegnare ai nostri figli come stare nella rabbia e utilizzarla nel modo corretto, magari anche creativo. È assolutamente creativa la rabbia. Sì, assolutamente, perché effettivamente io che sono un creativo, mi sembra di incanalare quell'energia quando dipingo, perché poi esatto, ad esempio dipingo con una certa rabbia, per cui adesso no. non voglio raccontarmi gli affari miei e farmi però effettivamente no. Poi pensavo anche a questi simpatici libri da colorare per gestire lo stress. No, che qua, cioè, il mandala, esatto, no, che aspetta che chiudo magari, perché questo è un Boeing abbastanza, aspetta, ecco, stai lì, ok. Cioè, voglio dire, quando vedo queste cose e dico: se sei messo così male che hai bisogno di comprare un mandala e colorarlo per gestire lo stress, cioè già intanto hai già capito che sei messo così male, per cui lo compri. Però quando li ho visti la prima volta, devo dire che mi hanno un po' sorpreso questi. Credo che non sia essere messi male, no? Colorare un mandala. Ah, ecco, no, è infatti... più un modo, un mezzo, uno strumento che viene utilizzato che può essere assolutamente utile. È proprio la conoscenza e la comprensione e l'essere a contatto con l'emozione che è importante. Se io sono a contatto con la mia rabbia e so che per me può essere utile incanalarla in quel modo, in realtà sta già nell'essere messo bene. No, infatti sei bravissima, devo dire, a rigirare questa frittata. Però io adesso voglio continuo a fare un po' l'avvocato del diavolo, ma giustamente, voglio dire, è il tuo mestiere. Insomma, meglio il mandala riuscire. Che la rabbia piromane. Ecco. Esatto. No, ma infatti io mi chiedo, ma quando tu vedi un personaggio, che ne so, a caso, quando tu vedi Salvini con tutta questa rabbia repressa in televisione, cosa pensi di uno così, che ha bisogno di esternarla in un modo così esagerato che ti muove gli equilibri di un paese? Adesso non voglio andare troppo in politica, perché poi la nostra trasmissione è di arte e teatro, per cui non so cosa ci fanno tre psicologi psicologhe, psicoterapeute qui, però a parte questo, dico... Allora, mi viene da risponderti che sì, già il titolo della nostra situazione è Robe da matti, quindi siamo assolutamente azzeccate in questo luogo. Certo. D'altra parte, che cosa muove Salvini a me come essere umano è un discorso. È un discorso che magari esula magari dalla psicoterapia. Dal mio essere psicoterapeuta. Perfetto. Che cosa mi muove la difficoltà nelle persone a gestire la rabbia mi fa pensare a quanto sia importante il ruolo del genitore e di come sia importante insegnare ai nostri figli proprio che cos'è la rabbia e che cosa serve la rabbia, proprio per impedire che si utilizzi nel modo sbagliato e che la frustrazione diventi uno strumento di odio e di guerra contro gli altri. E dunque a cosa serve la rabbia? Allora, la rabbia... È un meccanismo di difesa, immagino. Allora, la rabbia è una delle emozioni primarie, quindi il bambino comincia a provare rabbia nei primi mesi di vita. Ed è una delle emozioni. Lo capisco. Ed è una delle emozioni fondamentali che poi in realtà portano alla hanno portato anche alla sopravvivenza dell'essere umano fino ad oggi. È un'emozione molto antica che sta proprio alla base dell'essere umano. La rabbia ha un sacco di cose utili, ci aiuta a difenderci nei momenti di pericolo, ci aiuta a interagire con le persone, a relazionarci, ci aiuta nel momento in cui viene usata come strumento, come dicevamo prima, creativo, può essere un ponte relazionale, può essere un modo in cui ad esempio i ragazzi un po' più grandi forse dei tuo figlio, cominciano a identificarsi come persona. Quindi in qualche modo ti sfidano sui limiti, sulle regole, si sfidano rispetto alla propria esistenza. Quello invece lo fa sua sorella che invece ne ha 14. Ecco, per cui ad esempio. È perfetto. Okay. La rabbia è diversa a seconda dell'età in cui l'andiamo ad analizzare, ma ha sempre una sorella stuttica e lui si arrabbia, no? Funziona così. Beh. Dopodiché appunto, tutta colpa mia come al solito. Detto questo ti interrompo un attimo per sentire, fra l'altro, un pezzo che secondo me ha anche a che fare con questa cosa, perché si chiama What Beats Within, ovvero che cosa batte all'interno di noi stessi. E lei si chiama Jenny Owen Youngs, il PC della regia mi sembra che sia alzato, adesso faccio così smetto questa musichetta e magari eccolo. Same mistake, the pieces don't fit how I guess. Worn so thin and caving in, frozen between a no and yes. I'm sliding from center, I'm ripping into. Mountains of oceans. Come cosa? Stavo controllando anche i volumi del computer, che mi sembrano un po' bassi. Come cosa? Ma sì, abbastanza così, come cosa. E questa era Jenny Owen Youngs con What Beats Within. Perché non mi sento più? Chi lo sa? Voi mi sentite? Poco. Poco, in cuffia poco. No. Ah, ecco, infatti. Perché? Ecco perché, era un po' basso, scusate, sai, sono un po' distratto oggi, perché ci sono queste bellissime psicoterapeute che mi confondono. Siete tornati agli ascolti di Coxo Spaziale e abbiamo con noi Roberta, Licia e Marfia, che ci raccontano cosa succede la settimana prossima e anzi per tutto il mese di ottobre in Robe da Matti. Ma prima di questo volevo appunto raccontarvi che questa sera, oggi pomeriggio, tardo pomeriggio, ha inaugurato a Villa delle Rose una mostra di una vostra collega, ovvero di Mariella Simoni, che era una laureata in psicologia che poi invece è andata a fare l'artista, non chiedetemi perché. No, ci pensiamo anche noi ogni sì? tanto. Okay. Sì, sì. Io avrei in mente, non so, di fare la fioraia, aprire un'agenzia di viaggi, okay. No, per avere a che fare con momenti un po' più ludici. Piacevoli e ludici. dell'esistenza. Ho capito, perché tu di che cosa ti occupi di solito con i tuoi come si chiamano? Non si chiamano pazienti, si chiamano clienti, pazienti. Sono dei clienti pazienti. Molto pazienti. certo. No, dico, qual è? Cioè, è dura, è tosta la faccenda? Cioè, ci sono situazioni molto al limite? Situazioni molto al limite, c'è cioè un po' di tutto, ci sono sicuramente, essendo io psicoterapeuta, disturbi psicologici sì. Da trattare. Però però è sempre colpa dei genitori. No? Beh, no. Quello sì, però non bisogna dirlo ai genitori, okay. Perché la colpevolizzazione difficilmente porta a qualcosa di buono. Certo. Stavo per sì, no, effettivamente sì, no. Se tu no, dai no, tutto... no, voi siete bravissimi, chiaro, fate tutto con le migliori intenzioni, però con questo però, bambino fallite, occorre fare un po' diversamente, ecco, questa è la mia linea. Molto bene, detto questo ritorniamo a Mariella Simoni, che è un'artista che probabilmente molti di voi diranno: ma chi cavolo è Mariella Simoni? Non ne abbiamo mai sentito parlare. Non ne avete mai sentito parlare perché è un'artista che ha operato soprattutto all'estero. Lei si è trasferita prima in Francia, poi in Austria e praticamente è molto più conosciuta all'estero che non in Italia. E ieri sono andato ieri sono andato alla conferenza stampa e ho registrato qualche piccola parola sia di Lorenzo Balbi, il direttore del Mambo e di Bologna Musei e della parte del contemporaneo di Bologna Musei, e anche della curatrice, che è una belga che però viene tradotta magistralmente, per cui ascoltiamo che cosa ci ha raccontato. Questa mostra ha come obiettivo quello di inserirsi in questa visione che abbiamo un po' tracciato insieme al Consiglio di Amministrazione, all'Istituzione Bologna Musei, per questa sede museale, e questa vocazione all'internazionalità. Voi direte, è bello, bravo, fai vocazione all'internazionalità, lo fai facendo un artista italiano. Sì, esatto, proprio questo è l'obiettivo. Lo facciamo recuperando un lavoro per noi importantissimo di un'artista italiana che in Italia si è vista poco. Si è vista molto di più all'estero, con alcune partecipazioni eccezionali come la Documenta 9, solo per citarne una, e lo facciamo attraverso lo sguardo di un importantissimo curatore internazionale, e questo secondo noi è veramente avere uno sguardo sull'internazionalità e posizionare il Mambo e Villa delle Rose in un certo tipo di ricerca sul piano internazionale. Con questa mostra abbiamo cercato di riportare qui in un unico luogo tutto il suo percorso artistico, quindi dai lavori dall'inizio, quindi dal 78 fino alle opere più recenti, quindi tutta la sua carriera dall'inizio fino a oggi, dal 78 in poi fino alle opere pittoriche che lei ha sviluppato con un linguaggio pittorico davvero unico, più recenti, quindi sin dalle prime installazioni. E abbiamo cercato anche di mostrare la complessità e l'articolazione del suo percorso. E credo che questo tentativo di ridare unità e di ricomporre insieme il suo percorso artistico fosse già evidente nella sua ultima mostra ad Atene. Inoltre vorrei sottolineare come Mariella ha sviluppato molte sue opere all'interno di spazi vissuti, quindi come case, abitazioni, studi, e anzi dove gli spazi abitati sono diventati parte integrante dell'opera stessa. E credo che potrete percepire questa natura così peculiare anche dal lavoro di installazione, proprio di esposizione, di assemblage, per così dire, artistica che è stato fatto in questa location. E noterete sicuramente la presenza delle piante, che svolgono un ruolo molto importante nel suo lavoro e che sono anzi una fonte quasi di energia per Mariella. Arte contemporanea. Ecco, questo era l'undicenne che qua invece ne aveva 4 o 5 quando mi ha registrato questa cosa. Bene, e vi posso solo invitare ad andare a vedere questa mostra, perché effettivamente è una mostra un po' particolare, ha bisogno del suo tempo e anche di essere visionata con calma, cosa che non succede tanto spesso, per cui non voglio descriverla più di tanto. È una mostra piena di oggetti naturali e anche pittura molto raffinata. È a Villa delle Rose e sta su per 2 o 3 mesi, per cui avrete il tempo di andarci e anche troverete tutto quanto su www.coxospaziale.blogspot.com e come ritornando a Robe da Matti troverete anche tutti i link per saperne di più su questa psicologia per tutti, campagna provinciale di informazione psicologica. Ah beh, certo, è provinciale perché infatti siete in giro a Molinella, non so se quest'anno c'è Molinella, comunque Molinella, Casalecchio, Bologna naturalmente. Cosa succede questa settimana? Intanto che io cerco di postare la nostra foto su Facebook, raccontatemi cosa succede di bello questa settimana. Comincia il 2 ottobre, giusto? Comincia il 2 ottobre a Castel San Pietro Terme con un tema legato all'insonnia e poi prosegue nel quartiere Savena con un altro tema legato all'ipnosi e poi sulle trappole emotive a San Lazzaro e poi andiamo a San Giovanni in Persiceto. Cioè veramente da viaggiare tutta la pianura nella prima settimana, volendo, e sono tutti argomenti diversi sul bullismo, bulli e cyberbulli a San Giovanni e poi ritorniamo a Bologna con la Schema Therapy. E poi tutto il programma può essere consultato sul sito Psicosfere nella pagina eventi, giorno per giorno, in ordine di data. Naturalmente ci sono tutte le conferenze che si terranno su Facebook, sono postati sia gli eventi che anche le locandine che li raggruppano per location, quindi ogni quartiere di Bologna, ogni paese disseminato nella natura, con gli eventi che si tengono prevalentemente in locali pubblici. Devo dire che Robe da Matti coglie il favore e la collaborazione dei quartieri, delle biblioteche, e abbiamo sempre un'ottima accoglienza e un'ottima collaborazione, ci danno gli spazi e riusciamo sempre a fare dei lavori veramente dignitosi. Ero incuriosito di capire chi sono i vostri fruitori, chi viene alle vostre lectures, come si dice lectures in italiano? Conferenze, noi le chiamiamo conferenze. Sì, no, è che io ogni tanto mi scappa. Beh, è veramente molto vario, il pubblico è veramente molto vario, dai giovanissimi agli anzianissimi, poi ci sono gli affezionati, ci sono quelli che le girano tutte, ci sono quelli che tornano e ritornano. Delle volte mi tocca di dire, guardi che dico sempre le stesse cose, la conferenza è la stessa, perché ho un po' di timore che mi dicano sei ripetitiva, li avverto, ma loro vengono lo stesso e dicono sì, ma sai, io sono dura di comprendonio, l'ascolto sempre, imparo sempre qualcosa. Quindi c'è molta sete di ascoltare, perché c'è il bisogno di aumentare la conoscenza rispetto a se stessi, molto spesso c'è tanta voglia di imparare qualcosa per cambiare le persone che sono vicine, che sono un po' fastidiose, certo. Peccato che la psicologia non funzioni esattamente così, nel senso che l'unico potere che si può tentare di avere è dentro se stessi, che è già qualche cosa, nel senso che come ci si comporta crea poi delle conseguenze che possono essere più piacevoli o più sgradevoli. E quindi è vario, delle volte sono anche studenti, altre volte sono proprio persone in cerca di aiuto, persone che hanno voglia di sapere, persone che sono curiose magari di sentire sullo stesso tema un altro approccio. Sì, non direi che c'è un'unica categoria. Concordo. Degli stalker li avete avuti? No. No, stalker questi ancora no. Ah, vi mancano. Allora, gente che si arrabbia perché ci sono due conferenze nella stessa sera, e quindi no, infatti dicono noi non abbiamo il dono dell'ubiquità, ecco, quelli ci sono. No, effettivamente questa cosa qua, quando mi hai detto ci sono quelli che vanno a tutte le conferenze, dico cavoli, come fanno a essere alle 20:30 a Bologna in Via dello Scalo e alle 21 ad Anzola delle Miglie? Mandano le amiche e poi dopo si scambiano le informazioni, registrano di nascosto, mettono le telecamere infatti, dietro la schiena del vicino, pensando a questo vi stavo proprio per chiedere questa cosa, ma è dello streaming, nuove tecnologie, no? Non c'è Letizia, che di solito presenzia sempre questa trasmissione, ma il prossimo anno lo chiederemo direttamente a lei, che salutiamo caldamente, la più innovatrice per lo streaming. No, è vero, lei è attivissima sui social con un sacco di gruppi, alcuni segreti, altri no, è intrigante questa cosa. Ma i social come funzionano per la psicologia? Aiutano oppure cioè, come li vedete? Cioè, generalmente positiva o negativa? Dopo, adesso ormai saranno una decina d'anni che ci sono i social. Sì, io non sono tu brava, non ho studiato, quindi... Allora, io sono sempre molto polite, okay, e molto cerco sempre la mediazione. Credo che ogni strumento abbia qualcosa di buono e qualcosa di malefico nel suo interno, dipende come si sceglie di utilizzare lo strumento. Ci sono gruppi che secondo me danno tanto sostegno alle persone e quindi sono assolutamente utili, anche gruppi su Facebook dove ci sono persone che proprio si sostengono l'una con l'altra, un po' come i famosi gruppi di auto e mutuo aiuto. Ed è sempre molto bello sentire di avere intorno a sé una rete di persone che magari condivide la tua stessa difficoltà e con la quale puoi scambiare pensieri, emozioni e sensazioni. Di contro, come in tutte le cose, poi ci sono le persone che non sono in grado di utilizzarlo nel modo corretto e quindi diventa un po' un luogo nel quale ci si può permettere di dire qualsiasi cosa, ci si può permettere di commentare, giudicare senza pietà e come tutte le cose può diventare uno strumento che ferisce le persone. È per questo che secondo me è tanto importante per i genitori diventare anche bravi ad insegnare ai propri figli come utilizzare questi strumenti, e questo credo che sia la risposta forse più sensata alla tua domanda. Sono stata brava. No, sei stata bravissima. Come tutto del come resto, tutto. No? Perché sì. Infatti oggi stavo leggendo una tesi che di una mia studentessa che mi raccontava, nella sua tesi racconta come alcuni videogiochi, perché i videogiochi per esempio sono visti quasi sempre come una perdita di tempo e come comunque qualcosa di molto poco sociale e poco istruttivo naturalmente, perché poi sono pieni di violenza, ma anche appunto poco sociale, gli adolescenti si alienano con i videogiochi. Però nello stesso tempo mi diceva lei che alcuni videogiochi hanno aiutato per esempio dei malati di autismo nel cliccare e aprire delle porte mentali per migliorare la loro motoricità, mm-hmm, eccetera. E questo mi ha fatto pensare che anche una cosa che io ho sempre visto in maniera molto negativa, più che altro perché una volta mi hanno messo davanti a Doom, che era, stiamo parlando degli anni 90, era un videogioco dove si uccidevano tutti e io non sono riuscito a staccarmi fino a che non ho finito il gioco, per cui tipo sono stato lì 6 diventato ore, diventato una droga, esatto, per cui da quel momento lì ho deciso che i videogiochi, infatti ci sto molto lontano e cerco di farci stare molto lontani anche i miei figli, però effettivamente non è detto che siano. Lo stesso vale per Facebook, anche Facebook bisogna usarlo con una certa parsimonia. I'm looking through you, where did you go? I thought I knew you, what did I know? You don't look different, but you have changed. I'm looking through you. Questi naturalmente erano i Beatles con I'm Looking Through You, non l'ho scelta a caso, malgrado l'abbia scelta che perché significa ti sto guardando attraverso, no? Mm-hmm. E poi adesso non mi ricordo cosa racconta la canzone perché ero distratto a parlare con voi, stavamo parlando mentre i microfoni erano spenti, stavamo parlando di... dei social utilizzati per comunicare, per cui WhatsApp, Messenger, eccetera, e giustamente le nostre psicologhe, psicoterapeute non danno i numeri di WhatsApp ai clienti perché diventa problematico, però nello stesso tempo io sono convinto, cioè io tendenzialmente ho questa visione molto positiva, per esempio, di un social come Facebook, malgrado ci sia tantissima negatività nell'aria, ci sia un sacco di gente che si insulta, eccetera. Io penso proprio perché mi ricordo me da adolescente quanto fosse difficile per me trovare dei canali di comunicazione, delle persone che avessero i miei stessi interessi. Adesso con Facebook è facilissimo e non solo con Facebook, anche a livello creativo, visivo, Instagram per esempio è un mondo a sé, Pinterest eccetera, dove ci si può trovare. Infatti io per esempio ho amici di Facebook che sono artisti dall'altra parte del mondo con cui magari discuto di arte più spesso che non con i miei amici artisti qui. Sì. Detto questo, dobbiamo fare questa cosa. Adesso mi metto perché domani inaugurano un sacco di mostre che però io non sono preparato, per cui non so neanche bene quale sono. Allora adesso li vado a cercare sul mio Gmail, ma prima di tutto devo mettere questo simpatico jingle che si chiama, arriva, L'angolo della menzione. Si chiama l'angolo della menzione perché appunto menzioniamo cosa succede nel mondo dell'arte e nel mondo del teatro. Naturalmente abbiamo già menzionato Mariella Simoni a Villa delle Rose. Stamattina invece c'è stata la conferenza stampa della mostra di Muccia a Palazzo Albergati, che però non ci sono andato perché avevo troppo da lavorare, per cui non vi racconto nulla di questa mostra, mentre invece vi racconto che dov'è? Galleria Più invece inaugura domani con una mostra che si chiama, no, ho già sbagliato tutto, non lo so, ditemi qualcosa di interessante intanto che... Eccolo qua, Apparatus 22, scusate, Apparatus 22, Folding, Flexing and Expanding, Arrangements and Haze, Galleria Più ha il piacere di annunciare Arrangement and Haze, il secondo solo show in galleria del collettivo artistico Apparatus 22. Protesi per l'immaginazione radicale, le opere presenti in mostra sono incentrate sul processo di mettere insieme, intrecciare pensieri, energie, oggetti ed elementi al di là di ciò che è conosciuto, inconfutabile e manifesto, al fine di evocare le possibili manifestazioni del corpo nel futuro secondo Apparatus 22. Avete capito qualcosa? Assolutamente tutto. Benissimo, anche perché il sottotitolo è Nella penombra qualcosa cresce. Questo è assolutamente molto vero. Galleria Più è una delle gallerie più interessanti che ci sono a Bologna, è di fianco al Mambo, proprio in via, adesso ve lo dico anche di preciso, no, non ce l'ho, come non ce l'ho, impossibile che non abbia l'indirizzo, incredibile comunque. Ah, eccolo qua, Via del Porto 48, inaugura domani pomeriggio verso le 18:30, adesso vado un po' a casaccio, ma tanto inaugurano sempre, no, e non è vero, alle 18, e per cui facciamo così, che questo è lo stacco dell'angolo della menzione. Oltre a Galleria Più, domani inaugurano tutte le gallerie di quella zona, ovvero Car Drd in via Azzogardino 14A con la personale di Damien Mead, e rifacciamo così. E poi Between Zero and On con Rashid Uri, lo troviamo al locale 2, sempre in via Azzogardino numero 12C. E poi, non contenti, abbiamo Island, Archipelagos, Constellation, Works on Canvas and Papers 2006-2018 di Steven Rosenthal, e questo invece è alla Galleria P420 in via Azzogardino 9. Per cui se tu per caso abiti di fronte al Mambo, nel giro di un quarto d'ora riesci a vedere tutte queste... No, io un quarto d'ora, però comunque è abbastanza comodo. E dopodiché invece la settimana prossima si parte a fare cose un po' più serie e si va a vedere un po' di eventi a Bologna e provincia. Si parte con Insonnia, riapprendere a dormire con Michele Borreggiani. Ecco, per esempio, come mai alcune persone soffrono di insonnia e altre no? Io per esempio dormo come un sasso sempre e comunque. Una volta addirittura mi sono addormentato, eravamo andati a una manifestazione in treno e mi sono addormentato per terra nel corridoio di un treno con la gente che mi calpestava di fianco. Mi guardate tutte malissimo. Bisogna chiedere al collega. Al collega, ok. La conferenza. E voi non avete clienti che hanno problemi di insonnia? Ma sì. Cioè, tendenzialmente l'insonnia è legata all'ansia. Giusto, l'insonnia, cioè, generico, adesso non so, è legata all'ansia, non è che ci sono persone che hanno difficoltà a dormire, persone che non hanno difficoltà a dormire, questo può variare nel corso della vita a seconda dei momenti più o meno stressanti. Ecco, ma sai che io ho scoperto una cosa interessante, che forse magari qualcuno che non riesce mai a dormire potrebbe provare a risolvere. Io ho scoperto che se dormo con la testa rivolta verso nord dormo malissimo, se dormo con la testa rivolta verso sud o sud-ovest dormo da Dio. Ma quando lo sai di farlo oppure sempre? Sempre. Cioè, nel senso, te ne accorgi il giorno dopo? O... Me ne sono accorto una volta. La sera dici, cavolo, sono rivolto verso. No, me ne sono accorto. Innanzitutto mi sono accorto che dormivo benissimo in una particolare casa in cui appunto il letto era rivolto a sud-sud-ovest. Dopodiché ho fatto trasloco e non riuscivo a dormire. Mm-hmm. E non so perché ho pensato, ma come ero non so come mi è venuta questa cosa. Ho fatto la prova e dopo dormivo benissimo anche lì. Per cui cose molto interessanti, però non so l'ordine. No, non so l'ordine in quanto apprezzerebbe che ci mettiamo a parlare di Feng Shui, perché non credo rientri fra le discipline. Contemplate. Ok, ma invece a livello musicale che cosa ascoltano le psicologhe? Qual è la vostra? Voi siete tutte rigidamente musica classica? Assolutamente, Schopenhauer, tutti i giorni, esatto. Assolutamente solo musica classica. Ah, ecco, esatto. Cioè, vi svegliate con il coro, com'è che si chiama, quello delle Valchi? No, non quello, la Carmina Burano. Io mi sveglio con i cori gospel. Ah, ecco, vedi. No, okay. Scherzi a parte, credo che questo sia assolutamente personale, no? Io sono cresciuta con... musica che io ritengo molto bella e interessante. I Queen per me sono sempre stati una fonte di grande aiuto nei momenti anche più difficili. Le mie canzoni che mi aiutano a ritrovare un equilibrio ci sono e spaziano un po' in tanti generi. Una cosa che amo tantissimo ad esempio è il jazz, che secondo me è una musica che rilassa tanto, che aiuta tanto. Quando lavoro, che devo fare delle conferenze, ascoltare quel tipo di musica mi aiuta a concentrarmi molto. Stavo guardando se avevamo i Queen, ma non ce li abbiamo. Ecco. Abbastanza. In compenso abbiamo del jazz. Adesso metto questo qua a casaccio, così. Così. Ci rilassiamo un attimo. Which way is it going? Ho paura che sia un po' astruso come genere. Senti qua, Rashaan Roland Kirk. Foto ve la devo fare, perché sennò che cosa pubblichiamo? Certo. Comunque devo dire che chi ha inserito questo pezzo o questo album nell'archivio del Jeff, non lo so. Non so quanto sia giusto. Comunque è uno dei pezzi meno Jeff di Jeff della storia del Jeff. Però mette allegria. Infatti. No. Viene quasi voglia di ballare, un po' di saltellare. È simpatico, possiamo anche parlarci sopra. Dicevamo, allora, io vengo a vedere una delle vostre conferenze e dico, ma forse capisco che ho bisogno di più. Che cosa posso fare dopo aver ascoltato una di voi a Robe da Matti? Si associa nel mese di ottobre un'iniziativa che si chiama Studi Aperti, che tra l'altro è anche promossa dall'Ordine, ma che noi facciamo poi da tanti anni, e che dà la possibilità di chiedere un colloquio gratuito nel mese di ottobre con un professionista a scelta tra quelli che sono elencati nel Deplian che stiamo diffondendo a destra e a manca in città e che sono anche indicati sul sito. Quindi è possibile approfondire magari su un argomento o farsi un'idea di che cosa può voler dire un rapporto all'interno di uno studio con un professionista per qualche problematica che si ha bisogno di affrontare. Ho capito. E per cui alla faccia della privacy nel vostro leaflet ci sono tutti i vostri numeri di telefono. Assolutamente. Anche perché in realtà le persone che vengono da noi hanno il nostro numero di telefono. Ah, ok. E sono libere di mandare messaggi, SMS, WhatsApp quando vogliono. In realtà sta nel quello che viene definito contratto terapeutico, poi da parte dello psicologo dire: guarda, io rispondo dalle alle, da una certa ora in poi spengo il telefono, però se tu mi chiami dalle alle io ti rispondo. Per cui avete tutti il telefono con la doppia SIM? No, io ne ho due di telefoni, infatti ecco. Volevo dire ai miei pazienti che non vado a letto alle 8, okay. Lascio acceso quell'altro. Ah, ecco. Quindi se lo trovano spento. Giusto, perché poi dico, magari, ok, cioè questa, vabbè che mi sta curando, però questa alle 8 va a letto, qualche problema deve averlo anche lei. Dice. Anche perché 9 volte su 10 alle 9 siamo ancora in studio. Io ho dimenticato di menzionare che se qualcuno ci vuole mandare un WhatsApp o un SMS, il numero è 333 180 94 94. La batteria dice che si sta scaricando. E dunque il primo colloquio è gratuito, giusto? In questo mese sì, il primo colloquio è gratuito. E secondo me è un'occasione da sfruttare, perché spesso quando poi i pazienti arrivano, le persone arrivano, sono in imbarazzo e sono molto tesi all'idea di quello che potrà essere. Poi dopo la prima mezz'ora si accorgono che è molto meno angosciante di quello che si erano immaginati, che si erano prospettati nella testa. Per cui credo che sia una buonissima occasione, una buona esperienza da farsi, per capire che dall'altra parte non siamo dei mostri, siamo degli esseri umani e siamo sempre, cerchiamo di essere. Ma davvero la gente ha paura degli psicologi? Molti hanno questa percezione che lo psicologo esiste solo per curare i matti o che dallo psicologo ci si va, no, solo effettivamente in una situazione l'idea di andare dallo psicologo significa già accettare che c'è qualcosa che non va, che naturalmente per tanti è difficile. Cioè, sì. Perché nel momento in cui stai accettando che c'è qualcosa che non va, ne parlavo con un amico che diceva, lui parlava di un... in realtà di un problema simile, ovvero la povertà. Lui diceva, in Italia in realtà se tu sei povero ci sono un sacco di possibilità, cioè possibilità di aiuto, cioè non esisterà mai che non hai da mangiare, perché ci sono un sacco di associazioni che aiutano appunto i poveri, ma il primo problema è ammettere di avere un problema e dunque farsi aiutare. È la parte più difficile quella dell'accettazione, ma rimane il fatto che non devo per forza avere un problema. Lo psicologo non esiste solo per aiutarti a risolvere problemi. Certo. Può essere anche quella persona specializzata e esperta che ti sostiene in un momento difficile, certo. Quando stai passando una situazione difficoltosa o ti senti perso in una situazione che non riesci a gestire. Ecco, non è per forza, deve esserci per forza un problema, quanto una situazione in cui non ti senti perfettamente a tuo agio, o anche può essere semplicemente, a mio avviso, un percorso di conoscenza di sé. Certo. Io posso anche scegliere di andare dallo psicologo senza aver bisogno di chissà che cosa, ma perché voglio imparare a conoscermi ancora meglio. Certe volte ci sono persone che sanno anche come vorrebbero cambiare, però non riescono a mettere in atto il cambiamento. E lì lo psicologo può fornire degli strumenti per rendere operativo un piano che si ha in mente ma che non si riesce a realizzare. Domanda, ma che cosa ne pensate di questi libri di autoaiuto? Come quelli lì, come le vedete voi nel mondo della psicologia? Ma io quello che vedo è che insomma dipende un po' dalla gravità della situazione, nel senso che per difficoltà, mere difficoltà, può essere che un libro possa dare qualche spunto che ti può aiutare appunto a mettere in atto un cambiamento o capire cose che prima non capivi. Quando non si tratta solo di una difficoltà ma di un bel circolo vizioso, di un problema, la persona fa fatica a in interazione col problema ad auto osservarsi, per cui rischia di reperire tantissime informazioni che la confondono ancora di più. Quello che mi succede certe volte con dei pazienti che cercano freneticamente una soluzione, quindi si informano, leggono tantissimo, è poi di magari rischiare che invece di seguire il percorso che stiamo facendo intraprendano strade differenti, e va a finire che fanno un po' come quelli che si perdono nel bosco cambiando continuamente direzione. A queste persone dico: alto un attimo, adesso facciamo una cosa, così sappiamo se quella cosa funziona. Certo, come diceva Duchamp, non ci sono soluzioni perché non ci sono problemi. Esatto. Semplice, no? E del resto, appunto, lui è uno che quando è morto ha chiesto di scrivere sulla sua tomba: d'altronde sono sempre gli altri a morire. E volevo invece chiedervi, visto che abbiamo ancora pochi minuti, volevo chiedervi come avete scelto le vostre conferenze? Quello di cui ci raccontate è il tema che vi appassiona di più all'interno del vostro campo? Oppure vi sono state affibbiate dal capo? No, è una scelta puramente personale rispetto a quelle che sono le proprie competenze e i temi che sentiamo risuonare più in noi. Tu, Roberta, di che cosa parlerai? Io parlerò di genitori e figli. Ah, ecco, e poi della rabbia dei figli, che è colpa dei genitori, ok, perfetto. Della rabbia dei figli, e l'altro è sulla schema therapy, quindi sulle trappole emotive, le trappole di vita. E poi ne farò un terzo invece, che è proprio come noi ci rapportiamo ai nostri figli, quindi quali sono le difficoltà che troviamo nella relazione con i figli. Questo delle trappole di vita mi sembra molto interessante. Come ci racconti qualcosa oppure dobbiamo venire a sentirti? Allora, dovete venire a sentirci. Certo, naturalmente. Assolutamente, però è un argomento che io trovo molto interessante, perché lo ritroviamo in tanti aspetti della nostra vita. Sì. E quindi credo che sia una cosa carina da ascoltare per riconoscersi e vedersi. Certo, quello quando è? Okay, quello mi interessa seriamente. Il 5 ottobre alla Mediateca San Lazzaro. Ok. Ah, come liberate le trappole emotive e vivere felice, fantastico. Proprio. Molto bene. Invece Licia, che cosa ci racconti? Ti posso consigliare a me per i tuoi figli. Ah, ok. Studiare Che incubo. L'incubo di solito è più dei genitori. Certo. E dove si tiene al Fermo Immagine l'11 ottobre. Via Faenza l'11 ottobre, e dove tratterò delle principali difficoltà che si affrontano nel percorso di studio, da metodologie sbagliate di studio a proprio vera e propria ansia da prestazione, come affrontarle anche quando che mi dicono che la situazione è peggiorata nelle scuole, o mi sbaglio? Ci sono studenti che hanno attacchi di panico? Beh sì, questo più che con la scuola credo che abbia a che fare con la famiglia, l'educazione. Okay. Siamo sempre lì. Sì, certo, è sempre colpa dei genitori. Sì. Del resto, voglio dire, con dei genitori adultolescenti sono iperprotettivi. Certo. E quindi cercano di spianare la strada ai figli, anche proteggendoli dalle ire degli insegnanti, che possono essere sempre meno severi, perché poi vanno incontro a una delegittimazione da parte dei genitori, certo, se lo fanno, che si mettono dalla parte dei figli. Ecco, sono ragazzi che poco sono abituati ad affrontare le difficoltà. E questo ovviamente fa sì che si sentano più incompetenti ed aumenta l'ansia. Sì, è un circolo vizioso questo. Marfia? Che cosa ci racconti tu? Io parlerò di comunicazione non violenta di Marshall Rosenberg. Farò due conferenze su questo tema, una di base, sentimenti e bisogni dentro le parole che diciamo, e l'altra in particolare sui temi della rabbia e della colpa, sempre nell'ottica della comunicazione non violenta. E poi alla fine del mese a Casalecchio un tema legato al separarsi e poter sentire il pieno della vita e di sé nelle esperienze dei distacchi. Molto interessante anche quello. Poi vedo che Maria Letizia continua a parlare di tradimenti, non so bene perché, come mai abbia questa... Ah, la paura delle malattie fai anche quella è interessante, Licia. Col fiato sospeso, il 22 ottobre, col fiato sospeso, ansia, fobie, panico, paura di malattie. Io conosco persone che sono completamente succube dalla paura, cioè che sono sempre in pensiero rispetto alla propria salute fisica. Sì, beh, di solito quelle persone alla conferenza non vengono, vengono i familiari, sì. Infatti, certo. Perché loro magari pensano proprio di avercela qualche malattia, qualche disturbo. L'ipocondria è difficile intercettarli. Si difendono dietro al fatto che è oggettivo, sono veramente malato. Esatto. Sono io malato, tu non capisci, il medico neanche. Molto bene, io vi ringrazio tanto. Coxo Spaziale finisce praticamente qui. Adesso mettiamo la sigla finale poi ci salutiamo. Io vi ringrazio molto e vi do appuntamento al blog, no, al vostro sito che è www.psicosfere.it, dove troverete tutto il programma di Robe da Matti. Ve lo ricordiamo, dall'1 al 31 ottobre ci sono ben circa 45 conferenze a ingresso libero e studi aperti alla cittadinanza per usufruire di un colloquio gratuito e 23 professionisti fra psicologi e psicoterapeuti. Abbiamo qui avuto in studio Licia Vicinelli, Marzia Zunarelli e Roberta Ricci, che vi ringrazio tantissimo. Grazie, e poi, grazie a te a tutti chi ci ha ascoltato. E come al solito lasciamo la nostra ultima parola al direttore di questa emittente, che dice così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Questo era Coxo Spaziale, io ero Stefano W. Pasquini, ci risentiamo venerdì prossimo alle 20 sempre su Radio Città Fujiko. Ciao! Che succede? Beh, ma c'è anche...